Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Una dieta ricca di pomodori e frutti, in particolare mele, potrebbe aiutare gli ex fumatori a riparare i tessuti dei loro polmoni. A sostenerlo un nuovo studio pubblicato su European Respiratory Journal, e noi commentiamo i dati insieme alla dottoressa Anna Villarini, biologo nutrizionista all'Istituto dei Tumori di Milano. Questo studio è veramente molto interessante perché ci conferma come la frutta, la verdura, quindi cibi vegetali, possono proteggerci. Ricordiamoci che è rivolto agli ex fumatori, perché smettere di fumare è fondamentale. E questo studio ha messo in evidenza che mele e pomodori aiutano a ricostruire il tessuto del polmone fortemente danneggiato dal fumo. È possibile che questo sia per la presenza di una sostanza che è un antiossidante molto importante, che è il beta-carotene, ma ancora da questo punto di vista la ricerca ci dovrà dare delle risposte più esatte. Lo studio indica che sarebbe necessario mangiare circa 3 porzioni di mele al giorno e 2 porzioni di pomodori. Ricordiamoci però che le mele e pomodori svolgono la loro funzione quando sono di stagione, quindi nella loro stagione cerchiamo di avere un buon consumo di questi due vegetali. Gli alimenti che proteggono i nostri polmoni dai danni dell'inquinamento, ascoltate l'approfondimento della dottoressa Villarini sulle pagine di Obiettivo Salute. Se per Natale avete deciso di regalare una pianta, non sceglietela a caso, ma date la preferenza a quelle che, oltre a essere belle, migliorano la qualità dell'aria delle nostre case. A Obiettivo Salute la dottoressa Rita Baraldi, ricercatrice del CNR di Bologna all'Istituto di Biometeorologia, ci aiuta a scegliere le piante per noi. La tipica stella di Natale è sicuramente la pianta che noi possiamo regalare, perché oltre ad essere bella, però riesce anche a filtrare l'aria delle nostre case, che spesso è inquinata da sostanze volatili che vengono generate nelle nostre abitazioni. Ma non fermiamoci sulla stella di Natale, ci sono anche altre piante con dei fiori che sono molto belle, mi riferisco all'anturium per esempio, o allo spatitillum, tutte piante che grazie alle loro foglie, alla presenza appunto di questi organismi che riescono a filtrare l'aria, non solo abbelliscono le nostre piante per Natale, ma ci fanno anche vivere meglio nelle nostre case. Per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 continua con Melog. Io vi aspetto in diretta video. Se siete affaticati, tesi, stanchi, dolenti e volete provare a recuperare energia, tonno e buon umore, seguitemi. Vi aspetto, un saluto da Nicoletta e noi ci sentiamo ancora domani, sempre a mezzogiorno, per Obiettivo Salute Weekend. Un saluto da Nicoletta.